Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Kopf rein. Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Avremmo voluto aprire con un ricordo di Gigi Proietti, che è morto nel giorno del suo 80° compleanno, e invece dobbiamo aprire con una notizia dell'ultima ora: un attacco armato vicino a una sinagoga a Vienna. C'è un morto, ci sarebbero diversi feriti. Alcuni media parlano di un poliziotto che sarebbe morto. Cercheremo di darvi nuove notizie, aggiornamenti quando ci saranno, su questa terribile notizia che arriva a pochi giorni dall'attentato di Nizza. 4 giorni fa, 3 morti, lo ricorderete, all'interno della cattedrale della città francese, e a 2 giorni dall'attentato contro un prete a Lyon. Queste sono terribili notizie che arrivano tra l'altro in una giornata in cui Al-Qaeda nel Maghreb ha minacciato il presidente francese Macron, ha esortato i suoi seguaci a uccidere chiunque insulti il profeta Maometto. Chiaramente non sappiamo ancora se questo è un attentato di matrice islamista, cercheremo di darvi aggiornamenti. Come vi daremo aggiornamenti sulle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Domani è il grande giorno, Biden è in testa nei sondaggi, ma la distanza con Trump è diminuita. Parleremo anche ovviamente dell'epidemia da coronavirus, dei dati, della carenza di medici anestesisti e anche del DPCM che è in arrivo, e degli attriti fra le regioni e il governo centrale. Tutto questo negli approfondimenti alle 21:15, ma ora le notizie. Conte annuncia 3 scenari di rischio differenziato, chiusura generalizzata nelle ore serali. Rapporto stabile tra tamponi e nuovi positivi, nuovo appello da medici e anestesisti. Un sorriso sul Colosseo per salutare Gigi Proietti, l'addio di Mandrake nel giorno del suo compleanno. Stati Uniti e sfida all'ultimo insulto tra Trump e Biden, domani il voto per la Casa Bianca. Il nuovo DPCM anti-Covid prevederà un coprifuoco nazionale nelle ore serali. Lo ha annunciato il Premier Conte nel suo intervento alla Camera, in cui ha avvertito anche che la situazione è preoccupante, che si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni, 15 delle quali sono a rischio. La situazione è preoccupante e serve una nuova stretta, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Parlamento per fare il punto sulla pandemia. Siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza e massima precauzione per attuare ulteriori misure e per seguire una più stringente strategia contenitiva e mitigativa del contagio. Conte esclude un nuovo lockdown nazionale, ma ci sarà un coprifuoco serale. A livello regionale, il nuovo decreto, spiega il Presidente del Consiglio, definirà 3 aree con 3 scenari di rischio e misure via via più restrittive. In arrivo ci sono la didattica a distanza per le scuole superiori, limiti alla mobilità fra regioni a rischio, centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi, chiusi anche i musei, le sale bingo e quelle scommesse, e i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50%. Le regioni chiedono regole nazionali uguali per tutti e sollevano dubbi, critiche anche sul blocco degli spostamenti, e il sindaco di Milano Beppe Sala dice che in Lombardia non si ipotizza neppure lontanamente un nuovo lockdown stile marzo e aprile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Come ogni lunedì segna una flessione l'andamento dei contagi da Covid in Italia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.253, ma a fronte di soli 135.000 tamponi. Il rapporto tamponi positivi resta stabile al 16,3%. Cresce invece il numero delle nuove vittime, 233 contro le 208 di domenica. Aumentano poi di 83 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che tornano così a superare quota 2.000. Con le strutture sanitarie sempre più sotto pressione, il principale sindacato dei medici ospedalieri, la Nao Assomed, sollecita un piano straordinario di assunzioni di medici, anche neolaureati, da impiegare in attività di tracciamento o di assistenza domiciliare. Non ci sono abbastanza medici per gestire i posti aggiuntivi di terapia terapia intensiva, avverte anche l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri, che chiede alle regioni di assumere gli specializzandi e stabilizzare i precari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel DPCM in arrivo nuove disposizioni anche per la scuola. Didattica a distanza al 100% per tutte le scuole superiori. È questa l'indicazione del Premier Conte contenuta nel DPCM in arrivo. Sarebbe un disastro con i genitori che rischiano di diventare naturali babysitter dei nipoti, protesta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. A questo punto meglio chiudere tutte le scuole per 15 giorni ovunque, propone Pino Turi, responsabile UIL Scuola, e nel frattempo riorganizzare il sistema dei trasporti e allestire presidi sanitari negli istituti, per poi recuperare le presenze in classe nel periodo delle festività natalizie. Preoccupati anche i presidi per il prezzo sociale che pagheremo noi tutti, dicono, e di quello individuale che pagheranno gli studenti. Presidi che chiedono che lo stop alla didattica in presenza alle superiori sia breve e che serva a riorganizzare nel frattempo trasporti e sanità. Appello intanto al presidente Mattarella del coordinamento dei genitori La scuola che vogliamo, scuole diffuse in Puglia, regione che ha già chiuso le scuole in ogni ordine e grado. Denunciano reti insufficienti, dispositivi obsoleti e adulti non sempre in grado di aiutare i figli nella didattica a distanza. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tornano sopra 50.000 i nuovi contagi Covid-19 in Francia. Dopo la Francia, anche altri paesi europei iniziano una nuova fase di chiusura più o meno totale del paese. La pandemia è un evento epocale, ha detto oggi la cancelliera tedesca. Nella settimana in cui gran parte dell'Europa torna a chiudersi, è Angela Merkel ad indicare la traiettoria. Abbiamo davanti 4 mesi difficili di pandemia. La luce fuori dal tunnel, ammette la cancelliera tedesca, è ancora lontana. L'ex ragazza della DDA conosce perfettamente il peso delle restrizioni, delle libertà individuali, ma non c'erano alternative, scandisce, davanti a questo evento secolare. Così il paese entra nel secondo semi-lockdown con limitazioni che dovranno fungere da frangiflutti, dice, per contenere la seconda ondata. Merkel richiama il valore dei numeri nel continente dell'illuminismo e per oltre un'ora risponde alle domande, comprese quelle sul Natale. Molto dipenderà dalla riduzione ora dei contatti, ma sia pur con le regole del Covid, precisa la cancelliera, non sarà un Natale solitario. Un piano congiunto per il Natale, quello proposto anche dal governo inglese di Boris Johnson, che prima che la Camera dei Comuni voti sulle restrizioni al via da giovedì, torna a spiegarne l'assoluta necessità, ma indica anche il primo trimestre 2021 per l'arrivo del vaccino. Alla Francia, già in lockdown, si aggiungono poi anche Austria, Belgio e in parte la Grecia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tempo che Donald Trump faccia le valigie e se ne ritorni a casa. Abbiamo chiuso con il caos, sono le parole di Joe Biden in uno degli ultimi comizi della sua campagna elettorale, parole che lasciano trapelare un certo ottimismo da parte del candidato democratico alla Casa Bianca. Ultime ore di campagna elettorale oltreoceano, segnate da una tensione crescente tra le due fazioni. I più recenti sondaggi indicano Joe Biden sempre in testa, ma con qualche segnale di possibile rimonta trumpiana negli stati chiave. Gli sforzi dei due contendenti si stanno concentrando sulla Pennsylvania, stato decisivo nell'assegnare la Casa Bianca. Qui Biden ha un vantaggio di circa 6 punti, con Trump però che fa già presagire ricorsi giudiziari. Più rilassato appare il campo democratico in altri due stati in bilico, Michigan e Wisconsin, mentre Biden aspira ad infliggere sconfitte definitive per Trump in Florida, Iowa e Georgia. E in questa elezione straordinaria i timori si concentrano sull'imprevedibile comportamento dello stesso Trump domani notte e come reagirà di fronte a risultati magari parziali. La Casa Bianca, dove Trump trascorrerà la notte elettorale, viene blindata oggi con recinzioni non scalabili per timore di proteste. COVID. Il presidente intanto, sprezzante dei gravi numeri pandemici, offre in pasto ai suoi sostenitori l'odiato scienziato Fauci, colpevole di sostenere una linea antitetica alla sua sul virus, e minaccia di licenziarlo dopodomani. Biden contrattacca difendendo Fauci e sfidando Trump. Questo presidente non ci ruberà le elezioni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si aggrava il bilancio del sisma di venerdì scorso nel Mar Egeo, nella provincia di Smirne. I feriti sono quasi 1.000, oltre 200 quelli negli ospedali. È stata tratta in salvo una bambina di 3 anni. Tra vittime e crolli si cerca ancora. Le scosse di assestamento continuano, finora sono state quasi 1300 a 72 ore dal terremoto, sono numerose infatti le faglie attive nella zona del Mar Egeo colpita dal sisma di magnitudo 7.0, seguito dallo tsunami con correnti forti, onde alte un metro, inondazioni che si sono estese per circa 200 metri in città e nelle case. Le scuole sono ora chiuse per una settimana e mentre il bilancio è ancora tutto da definire, con le vittime accertate nella provincia di Smirne, salita 91, mentre i feriti sono 994, di cui 155 tuttora ricoverati in ospedale, 58 sono i palazzi a rischio crollo che dovranno essere abbattuti subito. In mezzo a questi un'eccezione che ha del miracoloso: è stata estratta viva dalle macerie dopo quasi 65 ore la piccola Elif Perinçek, una bimba turca di 3 anni rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio. Si sentono ancora i rumori e i soccorritori continuano a scavare. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Che fine ha fatto il bonus bici? Da domani mattina sarà operativo. Dopo annunci, rinvii attese, diventa operativo il bonus mobilità dalle 9 di domani sull'applicazione web del Ministero dell'Ambiente buonomobilità.it. Chi avrà acquistato una bici o monopattino dal 4 maggio in poi potrà chiedere il rimborso fino al 60% della spesa per un massimo di 500 euro. Basterà inserire in formato PDF la fattura, lo scontrino parlante, le proprie coordinate bancarie e avere l'identità SPID. Il rimborso arriverà tramite bonifico entro pochi mesi, assicura il Ministero dell'Ambiente. A chiederlo possono essere maggiorenni, residenti nei capoluoghi di regione e di provincia anche al di sotto dei 50.000 abitanti, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 e nei comuni delle città metropolitane. Ma il bonus è rivolto anche a chi deve acquistare. Sempre da domani infatti è possibile, tramite la stessa applicazione, generare un bonus spesa della durata di un mese fino al 31 dicembre con cui presentarsi in uno dei negozi scelti dall'elenco presente sulla piattaforma. Finora sono 2.400 gli esercenti che hanno aderito. Lo sconto in questo caso viene applicato direttamente in negozio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. I viaggi di Radio 24. Senza acqua non c'è cibo, non c'è igiene, non c'è salute né sviluppo industriale di servizi o turismo. Ecco perché anche nel mezzo di una crisi pandemica non può essere dimenticata. Noi vi portiamo a scoprire l'oro blu questa settimana con un viaggio nell'Italia dell'acqua, una delle risorse che meno associamo all'economia circolare. Sbagliando, dice a Laura Bettini, il direttore del reparto igiene e acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità, Luca Lucentini. Dobbiamo dire che proprio l'acqua in effetti è l'elemento tra i più trasversali negli obiettivi sostenibili di sviluppo dell'agenda ONU. In effetti, oltre ad avere un obiettivo dedicato, l'obiettivo 6, accesso all'acqua, è il presupposto per l'obiettivo 3, la salute, ma anche la lotta alla fame e tanti altri requisiti economici, sociali e di sviluppo. Questo è oggi il faro che illumina la revisione della direttiva acque potabili, ma anche il regolamento europeo del riuso, tutte norme che proprio il 2020 vede fiorire. Gli approcci che oggi seguiamo sono approcci di analisi di rischio integrata ed estesa, ma sito specifica. In altri termini, sia per le acque potabili che per riuso, cerchiamo di prevedere, sulla base di evidenze ma anche di proiezioni, per esempio su modelli climatici e ambientali, quali eventi pericolosi potrebbero finire nell'acqua, intercettandoli attraverso adeguate misure di controllo e monitorandoli. E tornando al tema dell'economia circolare, dove si riutilizza l'acqua oggi? Il principale riutilizzo è quello agricolo, ma oggi possiamo fare di più, possiamo controllare tutti i rischi che vengono dalla depurazione e, una volta accertato che l'acqua è sicura, usarla per l'alimentazione animale, ma anche per impianti di climatizzazione, fontane ornamentali, parchi, giardini. Se pensiamo a isole sostenibili, isole verdi in città per combattere l'inquinamento atmosferico, questi giardini li dobbiamo irrigare e per irrigarli il riutilizzo dell'acqua è la via maestra. E prima di andare a parlare con voi di politica e del DPCM, un aggiornamento su quello che sta avvenendo in questi minuti a Vienna. La sparatoria c'è stata vicino alla sinagoga Nahe, vicino a una piazza che si chiama Swedenplatz. Un attentatore è stato ucciso, un altro è in fuga, dice il Ministero dell'Interno, che lo ha comunicato a un'agenzia di stampa austriaca. La polizia viennese al momento non esclude un attentato terroristico nei pressi della sinagoga sono stati esplosi, dicono, numerosi colpi di arma da fuoco. Gli agenti della polizia hanno recintato la zona. In questo momento attendiamo sviluppi per capire che cosa sta accadendo in Austria proprio in questi minuti. Noi adesso diamo la linea al traffico e poi parliamo di politica. Guarda al futuro con Italiana Assicurazioni. Vi presenta... Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. 349-238-6666 per mandarci sms o whatsapp e per comunicare con noi e con Barbara Fiammeri, che è in collegamento con noi, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Buonasera Barbara. Buonasera. Allora, potrebbero essere, dalle ultime notizie che abbiamo, la Calabria, il Piemonte, la Lombardia, le regioni che sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità potrebbero rischiare di rientrare nelle prime ordinanze del Ministero della Salute con la previsione di misure più restrittive. Però in queste ultime ore, Barbara, il governo ha praticamente demandato le regioni a decidere. Curiosamente, mentre a settembre c'è stato questo presa di posizione da parte di molte regioni, soprattutto al nord, Veneto, Liguria, Lombardia, ma anche la Campania, che chiedevano lasciateci decidere, lasciateci un po' di autonomia, adesso invece sembra che le regioni che sono state così federaliste, autonomiste, a settembre si sono risvegliate centraliste, hanno chiesto al governo di dare un'indicazione generale. Hai anche tu questa impressione di un passaggio del bottone rosso da schiacciare per il lockdown che nessuno si decide a premere? Ma guarda, la sensazione che ho è che anche le regioni in realtà non siano, come dire, tutte compatte su questo, cioè ci sono delle sfumature diverse. Sicuramente da parte dei governatori di Lombardia e Campania, ovvero Fontana e De Luca, è venuta una spinta in tal senso a trovare dei provvedimenti di carattere nazionale, mentre altri presidenti di regione invece sottolineano che, insomma, tutto sommato non siamo tutti uguali. Se ti ricordi, già la primavera scorsa erano emerse queste differenti posizioni, allora molto concentrate, diciamo, tra una divisione tra nord e sud, visto che il sud era assai poco toccato rispetto alle regioni del centro-nord. Adesso invece che la diffusione del Covid è più omogenea sul territorio nazionale, diciamo, anche le divisioni tra regioni sono sparse. Certo è che il governo ha fatto una scelta molto netta, cioè ha deciso intanto Conte di andare in Parlamento e anticipare i contenuti di questo DPCM senza che però ancora sia stato scritto, cioè quindi la famosa parlamentarizzazione della crisi Covid in questo caso c'è stata, chiedendo all'opposizione di partecipare alle scelte. Dall'altra ha delegato al Comitato Tecnico Scientifico il compito di individuare quelle regioni che si ritroveranno nelle varie fasce indicate dal Presidente del Consiglio. Cioè Conte che cosa ha detto? Questo DPCM sarà sostanzialmente composto da tre fasce: una fascia di carattere generale in cui ricadranno sostanzialmente coloro che hanno il tasso di contagiosità, il famoso RT più basso. Non solo questo, ma che avranno anche manifestato una tenuta del loro sistema sanitario. E poi ci sarà una fascia intermedia e poi, come dicevi tu poc'anzi, ci saranno le regioni nella cosiddetta area più a rischio, cioè le regioni che sono già in scenario 4, e che significa con un RT superiore a 1,5. Sappiamo che nelle ultime settimane tanto la Lombardia che il Piemonte avevano superato o sfiorato la soglia del 2 e che hanno anche però contemporaneamente il sistema sanitario messo sotto stress, cioè a forte rischio di tenuta. Sappiamo ad esempio che in Val d'Aosta sono già al 50% le terapie intensive occupati da malati Covid. Infatti la Val d'Aosta ha attuato misure più restrittive. Barbara, sentiamo insieme a te un passo di quello che ha detto il Premier Conte. Da una parte rischieremmo di non adottare misure realmente adeguate, efficaci rispetto al reale stato di criticità delle regioni attualmente più a rischio, e dall'altro finiremo per imporre misure irragionalmente restrittive in quelle aree del paese ove al momento non risulta necessario intervenire con particolare severità. E questo era il passo dove Conte giustifica la decisione di non andare a un lockdown generale, ma di modulare le misure. Barbara, la sensazione, dicevo, è quella un po' che si stiano passando questo cerino. Di sicuro la questione, la scuola prima di tutto, la scuola non chiuderà, e che poi è un punto fermo di molti paesi a noi vicini, la Germania, l'Austria, la Gran Bretagna. È un po' venuto meno, la ministra Azzolina è stata lasciata sola su questo. Sì, anche se devo dirti che nelle ultime ore, proprio da quello che mi risulta e da quello che scrivo, la scuola elementare verrà comunque risparmiata anche nelle zone rosse, cioè comunque sarà in presenza, probabilmente fino alla prima media. Quindi anche in Campania, diciamo, dove il governatore aveva chiuso. Sì, dovrebbe essere in presenza. Adesso non so dirti però, perché resta sempre invece la norma prevista dal precedente DPCM e anche precedentemente, che dà alle regioni la possibilità di assumere decisioni più restrittive. Quindi diciamo, nella regola generale del DPCM che approveranno, che il governo approverà domani, dovrebbe entrare in vigore mercoledì, così ci ha detto Conte, dovrebbe esserci una norma secondo cui in generale in Italia al 100% ci sarà per le superiori la didattica a distanza, quindi online, per le superiori. Per quanto riguarda le medie e le elementari e le scuole dell'infanzia, lì si prevede che nei casi, cioè nelle aree più ad alto rischio, si possa consentire ancora la didattica in presenza fino alla prima media. Detto questo però, come stavo dicendo poco fa, non è da escludere che le singole regioni decidano misure ancora più restrittive, come ha fatto ad esempio la Campania che tu citavi, ma come ha fatto anche la Puglia. Quindi il governo non ha impugnato le ordinanze del governatore Emiliano o di Vincenzo De Luca, quindi è immaginabile che questa possibilità resti nella facoltà dei presidenti di regione. Infatti proprio il fatto che non le abbia impugnate faceva pensare che si andasse nella direzione un po' alla volta della chiusura. Barbara, ti ringrazio per questo tuo contributo e ci sentiamo prossimamente, perché chiaramente ci aiuti sempre a dipanare le questioni politiche sia sulle pagine del Sole 24 Ore sia a Radio 24. Prima di andare al meteo e salutarvi e cambiare argomento, perché poi parleremo più approfonditamente di Covid, c'è una proposta del segretario della Lega Salvini, che durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del Premier al Senato ha detto: chiudo con una proposta, riserviamo agli over 70 degli orari per l'utilizzo dei trasporti pubblici, per la spesa per i tamponi, aiutiamole a vivere in sicurezza senza chiudere in casa 60 milioni di italiani. Insomma, è tornato su una proposta che in una maniera molto, diciamo, goffa, il presidente della regione Liguria Toti aveva caldeggiato ieri in un tweet, poi è tornato sui suoi passi, perché in effetti il tweet era abbastanza scivoloso, ma Salvini è tornato su questa proposta. Noi ci fermiamo per il meteo, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Aggiornamenti sulla sparatoria davanti a una sinagoga a Vienna. Ci sarebbe un morto e diversi feriti. La polizia non esclude l'attentato. In un primo momento si era parlato di un attentato in una sinagoga. In realtà un giornalista del settimanale Falter, Florian Klenk, che si trovava proprio nella redazione davanti alla sinagoga, dice che la sinagoga e gli uffici annessi erano chiusi quando sono stati esplosi degli spari. e tutto questo è avvenuto davanti alla sinagoga vicino a un bar. Ora la polizia ha transennato la zona, un poliziotto è in gravi condizioni, questa è una notizia ufficiale che arriva proprio dal Ministero dell'Interno. Il colpo sarebbe stato esploso da uno degli attentatori da un'arma da fuoco a canna lunga, come informa, così informa, dice l'ANSA, il Ministero dell'Interno. Una persona è stata arrestata e un'altra è in fuga. Per quanto riguarda questa terribile notizia che è arrivata proprio pochi istanti prima della nostra messa in onda, vi aggiorniamo durante tutta questa messa in onda fino alle 22, poi torneremo a aggiornarvi in tutte le edizioni di GR24, ma andiamo ora a parlare di coronavirus, in particolare della situazione nelle rianimazioni fra i medici che si occupano delle rianimazioni, quindi gli anestesisti, che hanno lanciato oggi un appello perché i posti in anestesia sono stati in qualche maniera coperti, i posti letto, però ci sono delle carenze per l'organico che è disponibile e che deve gestire queste situazioni. Io do il benvenuto, la buonasera ad Alessandro Vergallo, che è presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori degli Ospedalieri Italiani. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Ho capito bene, i posti ci sono, ma i medici anestesisti sono meno di quelli che sono necessari per seguire i pazienti. Nel periodo pre-pandemico i posti in rianimazione erano poco più di 5.000, ora ce ne sono di più, ce ne sono 1.800 se non sbaglio in più, ma l'organico non è sufficiente, no? Sì, è così. Intanto una piccola precisazione sui posti. Non è inseguendo la moltiplicazione dei posti di rianimazione che si affronta il vero problema dell'andamento pandemico, perché visto che la curva raddoppia ogni 10 giorni, se andiamo di questo passo ne serviranno 100.000 tra un mese e mezzo, quindi è evidente che non è rincorrendo l'aumento dei posti che si risolve il problema, ma a parte questo c'è un limite che va oltre il numero di posti letto di rianimazione che è rappresentato dal personale specialista. E questo personale non si trova perché comunque nei decenni scorsi si è attuata una pessima programmazione dei fabbisogni dei nostri specialisti. E questo per il passato. Ma adesso che cosa si potrebbe fare nell'emergenza? Noi stiamo già facendo e ci stiamo impegnando a fare quello che abbiamo già fatto nella prima ondata nelle regioni che sono state colpite appunto nei mesi di marzo-aprile. E quindi stiamo ripetendo le stesse modalità riorganizzative del nostro lavoro in maniera tale da poter ottimizzare le risorse, per esempio riducendo in parte l'attività chirurgica che consente di shiftare colleghi dalla sala operatoria alle rianimazioni. Abbiamo anche accolto con favore il decreto 9 marzo che ha consentito l'immissione in servizio di colleghi specializzandi. Chiaramente speriamo questa norma abbia poi un prosieguo, ma in un senso più ordinato rispetto al disordine con cui è stata emanata, che ha previsto il fiorire di contratti atipici che non favoriscono l'organizzazione ottimale del lavoro di questi colleghi, che per quanto non siano specialisti comunque sono più competenti di qualunque altro specialista in altre discipline. Dottor Vergallo, le persone che entrano in rianimazione che età in media hanno? Guardi, hanno una distribuzione estremamente ampia. Nella seconda ondata la fascia d'età media si è un po' abbassata, ma questo non è molto significativo ai fini di poter stabilire un'età tipica, specifica. Questa è una malattia che colpisce tutti, tranne effettivamente i primi anni di vita, gli anni dell'infanzia. Il resto è abbastanza diffusa nelle varie fasce anagrafiche. Attualmente ha un'età media che si sta un periodo abbassando e si avvicina verso i 50 anni, mentre prima avevamo un'età media di circa 8-9 anni più anziana. Un'ultima cosa, è arrivata poco fa la proposta del segretario della Lega di riservare alle persone che hanno un'età superiore ai 70 anni degli orari per l'utilizzo dei trasporti, per la spesa, per i tamponi, non proprio un lockdown, ma un modo per proteggere queste persone in determinati orari. Avrebbe senso secondo lei come medico? Sotto il profilo epidemiologico chiaramente questo non è un campo tipico nostro, perché noi siamo clinici, però abbiamo sufficienti conoscenze per poter affermare che sarebbe una soluzione assolutamente insufficiente, perché il tracciamento dei contagi totali lo spiegano molto bene i matematici e gli statistici, così come quella parte di epidemiologi che fa delle analisi concrete non basate su sfere di cristallo, questo meccanismo di protezione parziale su quella fetta di popolazione che in realtà finirebbe con non incidere significativamente sulla diffusione del contagio e sulla stessa protezione degli anziani. La ringrazio. Grazie a voi, buona serata. You turn in the news. COVID. Here's what happens November 4th. You won't hear too much about it. Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election. Insomma, l'avete sentita, la voce di Trump è vicina alla resa dei conti tra Trump e Fauci, il super esperto di malattie infettive che è stato molto critico verso la Casa Bianca per la gestione della pandemia. Il presidente americano durante questo comizio in Florida ai supporter che urlavano licenzialo, ha risposto: non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po' dopo le elezioni, ha aggiunto: apprezzo il vostro suggerimento. E insomma, sono proprio le ultime battute di questa campagna, ultimo giorno, ultime ore per questa campagna fra Trump da una parte e Biden dall'altra. Molti hanno il timore che anche che la democrazia americana sia a rischio, perché una vittoria di Biden con un margine non netto potrebbe portare Trump a non concedere la vittoria a Biden. Marco Valsania, benvenuto, buonasera. Buonasera a voi. Marco Valsania, corrispondente da New York per il Sole 24 Ore. La situazione è abbastanza tesa da quello che si capisce. A New York ci sono stati negozianti che hanno chiuso le serrande con addirittura delle assi di legno, come se dovesse arrivare un tornado, per paura di disordini. C'è chi dice che Trump potrebbe non accettare eventualmente una vittoria di Biden se non ci fosse un grande margine. Qual è lo scenario, Marco? E diciamo, lo scenario così più preoccupante e più che tiene, diciamo così, in ansia il paese, ma anche appunto, come ricordavi, i business e la borsa, i mercati, anche proprio quello di un risultato non chiaro o di un risultato ancora più contestato, diciamo, quindi un risultato che non venga accettato, in particolare da Trump, che ha ripetutamente nelle ultime settimane indicato che secondo lui solo una frode elettorale potrebbe dare il successo a Biden, e ha lasciato capire che appunto potrebbe contestare, diciamo, risultati che lo vedano uscire sconfitto. Quindi il clima è sicuramente quello di un grande nervosismo e anche con lo spettro di ordine che tutti si augurano, che non, compresa appunto le autorità ovviamente, che non accadano, ma che sicuramente difficile esorcizzare del tutto, visto appunto il clima di elevata tensione, e che giustificano appunto, che spiegano il perché, come ricordavi, negozi in varie grandi città, centri cittadini abbiano già messo in atto delle misure di precauzionali abbastanza drastiche. E spiegano anche perché l'FBI si sia comunque mobilitato aprendo centri di comando diffusi così nel paese, proprio per tenere più sotto controllo la situazione sul campo. Il Dipartimento della Giustizia ha comunque inviato osservatori ufficiali in almeno 44 dei 50 stati per ufficialmente verificare che non ci siano episodi di intimidazione o di violenza nei pressi delle urne, e quindi questo è il clima, un clima abbastanza più unico che raro per gli Stati Uniti nella storia elettorale recente. E che noi seguiremo con delle dirette, degli speciali domani sera e anche dopodomani mattina. Grazie a Marco Valsania dagli Stati Uniti. Grazie a voi. E noi ci fermiamo perché c'è il traffico subito dopo, importanti aggiornamenti da Vienna, rimanete con noi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rientriamo in studio aggiornandovi su quello che sta accadendo a Vienna. Nei pressi di una sinagoga c'è stata una sparatoria, dei colpi sono stati esplosi da un attentatore con un'arma da fuoco a canna lunga, informa il Ministero degli Interni austriaco. Ma per gli aggiornamenti abbiamo in studio con noi Gigi Donelli. Gigi, qual è la situazione? Sì, Valentina, dunque gli aggiornamenti che arrivano da Vienna, in questo momento ovviamente attraverso le testate austriache, il Courier, che è appunto un quotidiano di informazione online, parla di 7 morti e diversi feriti. Questo il nuovo bilancio in merito alla sparatoria che è avvenuta nei pressi della Stadttempel Sinagoghe, che è una sinagoga, ma è una sinagoga assolutamente speciale, perché pensate che tra le 93 sinagoghe viennese è l'unica a essere sopravvissuta alla distruzione dell'Olocausto. Ora, quanto accaduto? Sembra che tutto sia accaduto all'esterno del luogo di culto, in una sparatoria tra le forze di sicurezza e di controllo della sinagoga. Due uomini armati armati di fucili, uno dei quali si sarebbe poi fatto esplodere. Ora, questi sono gli ultimi aggiornamenti, naturalmente ve ne daremo ulteriori nel corso della serata. Grazie a Gigi Donelli. Insomma, davvero una serata terribile per l'Austria, un po' per tutta l'Europa, che sta vivendo delle giornate, prima Nizza, poi Lione e ora Vienna, terribili. Sembra proprio che si tratti di un attentato. Continueremo ad aggiornarvi ovviamente su questo. È stata una giornata terribile anche per la scomparsa di un grandissimo attore. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Top! Top! Deve dire un whisky maschio senza rischio. È un whisky maschio senza fischio. No, stop! La rifaccio da capo. È un rischio maschio senza whisky. Stop! Stop! Gigi Proietti avrebbe compiuto oggi 80 anni, invece ci ha lasciato. Aveva sempre ironizzato su questa sua data di nascita, il 2 di novembre. Che dobbiamo fare? Diceva. È quella che è il 2 novembre. Gigi Proietti è morto per gravi problemi cardiaci dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana. E giovedì Roma darà l'addio con dei funerali in città. La sindaca Raggi proclamerà il lutto cittadino per quel giorno. L'immagine di questo grande attore già campeggia sul Campidoglio e sul Colosseo. In collegamento da Roma per noi Elisabetta Fiorito, buonasera. Buonasera Valentina, buonasera radioascoltatori. Abbiamo un paio di minuti, Elisabetta, per te, che sei una collega che si occupa di politica ma anche molto di teatro e spettacoli con la tua trasmissione Cartellone. Qual è l'atmosfera che si respira proprio a Roma in queste ore? Proietti era un attore italiano importantissimo, ma chiaramente una cifra romana molto forte. Ma allora Valentina, intanto la città è più povera oggi, questo mi sembra abbastanza evidente, se ne va in un momento molto difficile appunto con il probabile lockdown. Lui era riuscito a riaprire il Globe, che aveva fatto una bellissima stagione. Il Globe Theatre è praticamente una copia di quello che sta a Londra, per chi non è di Roma, in mezzo a Villa Borghese, l'aveva voluto lui, lo dirigeva dal 2013 e io l'ho incontrato lì una volta, l'ho intervistato. Lui amava il fatto che il Shakespeare potesse essere per tutti come era nell'epoca elisabettiana e chiedeva poi ai registi di rispettare il testo. Poi sulla regia potevano scegliere quello che gli pareva, ma il testo doveva essere rispettato pedissequamente. Quindi era un attore, un mattatore ed era un grande artista, ma anche una persona molto colta, che però nella sua cultura sapeva trasmettere la cultura a livello popolare e quindi creare poi i one man show oppure le barzellette che tutti abbiamo imparato a conoscere. Grazie Elisabetta Fiorito per questo ricordo, il ricordo di Gigi Proietti anche nelle parole di un sindaco importante di Roma, Francesco Rutelli. Buonasera Rutelli, qual è il suo ricordo personale di Gigi Proietti? È il ricordo credo di tutti gli italiani, ovvero di una persona che bussava alle porte delle nostre case e attenzione, non solo dei romani, ma dalla Val d'Aosta a Pantelleria, e tutti gli aprivano volentieri, perché era un modo intelligente, ironico, critico, e anche quando sembrava roboante conteneva un pensiero profondo. Quindi noi volentieri tutti aprivamo a Gigi Proietti le porte della nostra casa. Era un attore, ma era soprattutto un comico, sempre pronto all'ironia e all'autoironia. L'ironia di Proietti era permanente ed è propria del grande attore, dell'attore teatrale e di un uomo colto, di un uomo colto. Proietti era un uomo che ha sempre fatto di tutto, dal nightclub a doppiaggi sorprendenti, incluso Gatto Silvestro, la sua voce era fenomenale, incluse personalità che quando andrete a rivedervi il suo record come doppiatore saremmo ancora tutti sorpresi, però la sua cultura lo spingeva ad essere un romano autentico nel senso di universale, perché la romanità non è provinciale, non lo era neanche quando parliamo dei grandi, non lo era per Belli, non lo era per Pascarella, non lo era per lo stesso Trilussa, che è stato certamente dialettale, ma con un modo tale da farsi intendere a tutti gli italiani. E quando parlava Proietti c'era silenzio, perché i suoi tempi, la sua capacità di affabulazione e il suo pensiero erano convincenti. È stato anche un maestro, perché nella sua scuola di recitazione si sono formati molti talenti. Penso sia la cosa più bella che rimane di Proietti, perché quando si spegne una voce come questa, purtroppo si spegne per sempre. Certo, non è come con i grandi di 100 anni fa, per cui la voce dobbiamo andarla a ritrovare in qualche antica registrazione. L'audiovisivo ci regala di Proietti e ci regalerà per sempre immagini, interpretazioni e appunto la sua voce. Però il timbro di quella voce ha bisogno di essere autentico, ha bisogno di essere indiretta, come si addice a tutti gli uomini, le grandi personalità del palcoscenico. E questo ci mancherà per sempre, questa è la crudezza e la durezza della morte quando ci raggiunge, ovvero ci può essere la memoria, ci sarà sempre la memoria, ma non c'è quel calore immediato che Proietti ci ha regalato per tanti decenni. Lei è anche presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali. In questo momento l'epidemia ci impone delle restrizioni, le impone allo spettacolo, al cinema, ai teatri, e già il cinema era provato dalla presenza sempre più invadente dei film in streaming. Torneremo al cinema, Rutelli, o il cinema è destinato a cambiare per sempre? Il cinema è sempre cambiato. Da sempre, vorrei dire dalla prima proiezione di Lumière, è arrivata la televisione, se ne preconizzava la morte, è arrivato l'home video egualmente, è arrivato lo streaming e certamente la moltiplicazione dei modi di fruizione è un arricchimento, non è un impoverimento, anche perché come dimostrano, prenda i grandi festival, quello di Venezia o l'ultimo ancora di Roma, nessuno rinuncerà mai alla fruizione, al godimento di un film sul grande schermo, con il buio, con il silenzio e con quella vicinanza che ci lascia la nostra soggettività, la vicinanza ad altri, la condivisione con altri, però ci lascia sempre essere noi stessi con emozioni uniche, se il film è una cosa importante, anche divertente, emozionante e trasformativa. Quindi non sono pessimista, dico che, e lo dico anche per le nostre industrie, cresce la produzione di contenuti perché cresce la domanda di contenuti. Di questi una parte sicuramente rilevante, noi difenderemo il fatto che si goda nelle sale, ma non è male che si accresca la fruizione sia nelle televisioni sia attraverso lo streaming, a condizione che le regole siano efficienti e trasparenti, e penso che questa sia la finalità che ci accomuna anche nelle televisioni, anche attraverso le piattaforme. Grazie Francesco Rutelli. Grazie a voi. E prima di chiudere questo nostro contenitore di notizie, arrivano notizie di tensioni da Brescia, dove c'è stata una manifestazione organizzata contro l'ultimo DPCM al quale hanno partecipato alcuni esercenti, esponenti di estrema destra e ultras. Un ragazzo, un ultras del Brescia, si è gravemente ferito ad una mano con una bomba carta. Questa era l'ultima notizia di questo GR, tra pochissimo i titoli. Io ringrazio in redazione Alessandro Schirano e Jacopo De Franchi, in regia Gianmarco Ferronato. Tutti voi per l'ascolto, vi saluto, vi auguro una buona serata. Effetto Notte torna domani alle 21.